Buonasera, buonasera, benvenuti di nuovo a questa nuova puntata di Mighty FM. Abbiamo fatto una piccola pausa la settimana scorsa, ma eccoci ritornati per questo secondo episodio del 2016, con la seconda uscita del 2016 che ha catturato la nostra attenzione o che comunque stavamo aspettando con ansia, insomma con emozione, con eccitazione musicale. La scorsa puntata l'abbiamo dedicata ai Daughter e questa puntata la dedichiamo ad un duo. Prima era un trio, ma ne parleremo diffusamente in questa prossima ora e mezza qui a Mighty FM sulle frequenze di Radio Kairos, che vi parla è Claudia Mighty Mau. Quest'oggi parliamo dei Chairlift, formati ora attualmente da Caroline Polachek e Patrick Wimberly, che il 22 gennaio scorso hanno pubblicato il loro terzo album dal titolo Moth, Falena, e iniziamo come sempre col brano di apertura che si chiama Look Up. No more fruit to bear. When the tide goes belly up to feed the sleepers at the wheel. When you're rotten, not pretending, and there's nowhere left to roam. But you keep running, running, running, running, running, running. Look up! Ha! Look up! Built across the sky, but when you say it, I believe you, and it almost sounds alright. Tell the losers, tell the winners, the same ship will bear us all, but l'antipasto di questo disco, un brano molto breve che fa da introduzione a questo album, che è un New York album, un album che parla della città, di come si vive, dell'emozione che ti dà di vivere in un ambiente così speciale, così anche contraddittorio, dove guardi in alto e vedi appunto questi ponti, queste strutture di acciaio, di cemento armato che svettano contro il cielo. È un pezzo che richiama quelle che sono le influenze musicali che io sempre ho ravvisato nelle canzoni di Chairlift, fin da quando io personalmente li ho conosciuti con l'album Something del 2012, ovvero si sentono queste percussioni, questi suoni molto orientali, molto giapponesi, e dei suoni di fiati, di legni, di oboi, che per me sono assolutamente legati a nomi come David Sylvian e Mick Karn, ovvero in Japan, ma anche molto molto nelle loro rispettive attività soliste. Quella di Mick Karn purtroppo conclusa, perché anche lui ci ha lasciato già da qualche anno, ma appunto i Chairlift sono nati nel 2005 dall'incontro tra Aaron Fanning e Caroline Polachek all'università nel Colorado a Boulder, e la loro idea iniziale era di fare background music per haunted houses, cioè musica di sottofondo per case infestate dai fantasmi. Cominciano a far musica insieme e si trasferiscono a Brooklyn, che, come abbiamo scritto nella presentazione per questa puntata, era l'epicentro un po' della scena alternativa, dove poi sono emersi Grizzly Bear, MGMT, Vampire Weekend, Yes Sayer ed altri, e hanno fatto un primo album dopo che nel gruppo è entrato anche un vecchio compagno di scuola, sempre dai tempi del Colorado, di Caroline, ovvero Patrick Wimberly, diciamo un terzo membro all'inizio molto in ombra, anche perché sia Aaron che Caroline cantavano spesso nei pezzi, mentre lui aveva solo dei compiti da strumentista. E fanno il primo album nel 2008. Fine 2008 esce Does You Inspire You, che contiene il pezzo che stiamo già sentendo da un po', questa Bruises, che li ha fatti conoscere al grandissimo pubblico per il fatto di essere stato scelto Fortunelli dalla Apple per una pubblicità dell'iPod Nano, come era successo in passato per Young Folks di Peter Bjorn and John, per 1234 di Feist. Voglio dire, la tua canzone in una pubblicità della Apple entra nelle orecchie letteralmente di tutti, soprattutto se appunto si pubblicizza un iPod Nano che andava alla grande in quel periodo. Infatti sentiamo la voce di Aaron. Una canzone molto semplice, e ho letto in un articolo, così innocua e carina come innocui e carini sono i prodotti della Apple, le cui canzoni, che questo tipo di canzoni possono perfettamente accompagnare e pubblicizzare. Quindi insomma, etichettati un po' come indie twee, hanno fatto un po' fatica a sbarazzarsi di questa etichetta perché hanno dimostrato nel tempo di saper produrre molto molto di più. Comunque esce questo disco nel 2009, riedito, prima è stato pubblicato dalla Canine Records di Brooklyn, dove avevano anche iniziato ad incidere i stessi Grizzly Bear, poi appunto visto il grande successo ed un passaggio grazie alla Apple a un contratto con la Columbia, il disco viene rieditato con un pezzo un po' più lungo, due bonus tracks, e partono per un tour di 18 mesi. E alla fine Aaron e Caroline, che avevano una relazione anche sentimentale, sbroccano, cioè la storia finisce, e anche un po' le tensioni di stare in tour tanto tempo, alla fine in Australia Aaron abbandona il gruppo, e dopo 18 mesi di exhaustion, cioè alla fine erano veramente spompati, distrutti, l'esistenza del gruppo viene messa seriamente alla prova, ma invece vanno avanti alla grande, come è andato avanti a modo suo anche Aaron Fanning, che ha avviato subito dopo un progetto, siamo già nel 2010-2011, dal titolo Rewards, Ricompense, e questo è uno dei pochi pezzi che poi alla fine ha pubblicato, si chiama Equal Dreams e vede la partecipazione di Solange Knowles, ovvero la sorellina minore di Bay Bay. Questa Equal Dreams del progetto successivo all'abbandono di Chairlift, che vorrei sottolineare si chiama Seggiovia, forse appunto influenzati dalle cime nevose dove si va a sciare intorno a Boulder, Colorado. Chairlift hanno scelto questo loro nome quando si sono incontrati, parliamo appunto del 2005-2006, dopo delle prime registrazioni a Los Angeles con un bassista, hanno fatto qualche pezzo di un EP, Daylight Savings, che non ho trovato. Poi, come dicevamo, nel 2007 si aggiunge Patrick Wimberly e si trasferiscono a Brooklyn, dove conoscono gli altri musicisti di questa scena molto emergente, molto vivace. Conoscono gli MGMT, la stessa Caroline figura nel video di Time to Pretend, gli stessi MGMT remixano uno dei pezzi sempre contenuti nel primo album, ovvero Evident Utensil. E in questo pezzo sentiamo la voce di Solange Knowles, che è un'amica, direi amica di famiglia, visto che ha anche partecipato al recentissimo matrimonio di Caroline a New York, e perché anche l'altro membro, Patrick Wimberly, sta attualmente lavorando al nuovo album di Solange Knowles, e poi perché, e questo ormai è storia, a un certo punto della loro vita sono stati contattati, hanno incontrato, insomma, un po' casualmente Beyoncé, che ha chiesto ai Chairlift: dai, venite a fare un po' di musica, ci piace quello che fate voi, venite a fare la vostra cosa, e hanno, insomma, provato a fare un po' di canzoni insieme, e poi una canzone è entrata nell'album di Beyoncé del 2013, l'album a sorpresa, ma ne parleremo diffusamente in seguito, perché adesso diamo spazio al secondo pezzo dell'album, Moth, Chairlift, terzo lavoro, uscito pochi giorni fa. Questo è Polymorphing. Shifting polymorphic. Sound the guns when we're together. Shake a rain stick at the weather. Take the day off, I surrender. Come si può sentire, i Chairlift hanno un talento naturale per creare dei suoni molto catchy, molto avvincenti, molto orecchiabili, molto gradevoli, con una produzione molto raffinata, e già l'avevano dimostrato in Something del 2012. E questo pezzo, Polymorphing, si usa questa parola per parlare della trasformazione, del potere trasformativo dell'amore, quindi un disco che si concentra molto sull'amore e sulla città di New York, scegliendo come metafora la falena, che è un po' una contraddizione della natura, perché non è bella come una farfalla, ha una vita un po' inutile, gira in cerchio attirata inesplicabilmente dalla luce, dalla fiamma, per un attimo di luce, per avvicinarsi il più possibile, la maggior parte delle volte ci rimette le ali. Chairlift hanno sempre subito il fascino della musica anni 80, molto molto caratterizzata dai synth. Caroline stessa dice: io sono il synth, per cui ho sempre ammirato moltissimo gruppi come Orchestral Maneuvers in the Dark, Yellow Magic Orchestra, Sakamoto, e anche qui ritorna il collegamento con Sylvian e Thomas Dolby. E quindi gli eco della musica anni 80, quella più sghemba, termine che mi è molto chiaro, con questi suoni un po' angolosi, spigolosi, hanno caratterizzato molti pezzi del loro album nel 2012, dove appunto Patrick e Caroline si sono trovati da soli e, a differenza del passato, hanno deciso di comporre i pezzi nuovi insieme nella stessa stanza, non separatamente come prima avevano fatto Aaron e Caroline, e decidere subito una palette sonora, ovvero: mi piace questo suono di synth, lo voglio usare anche in diversi pezzi. E quindi, come un artista sceglie dei colori, come uno stilista sceglie dei colori di una collezione, loro hanno scelto la loro serie di suoni che ha informato poi l'album Something del 2012, con cui io, come dicevo, li ho conosciuti, e era uno dei gruppi più attesi che avremmo desiderato vedere al Pitchfork Music Festival di quello stesso anno, 2012, se non che i Chairlift erano l'unica band che non era già in Europa prima dell'arrivo della famosa tempesta Sandy, che bloccò proprio le comunicazioni, la vita a New York, le comunicazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti, e quindi loro saltarono il festival, e a noi dispiacque moltissimo. Ma per parlare un po' del contesto, della scena e della nascita, dello sviluppo e rivoluzione musicale, soprattutto Carole Ann Poracek, che ne ha fatte di ogni. Classe 1985, molto precoce appunto in ambito musicale, fonda un gruppo a 20 anni, ma già adesso che ne ha 30, in mezzo ha fatto tantissime cose, tantissime collaborazioni. Infatti una delle prime cose che ha fatto arrivando a Brooklyn è stato creare un progetto dal titolo Girl Crisis, che vedeva membri di Au Revoir Simone, Telepathy e altre band, con questo progetto di fare ogni tanto delle cover di gruppi del passato, dalle Bengals, Black Sabbath, dai Nirvana, Yes of Base, fare due cover all'anno con questo nome, Girls Crisis. E uno dei gruppi che ho appena citato era un duo brooklinese, le Telepathy, che alla loro uscita noi abbiamo amato molto subito, poi si sono un po' perse, poi sono un po' tornate fuori dopo diversi anni quest'estate con un secondo album dopo 3-4 anni dal titolo Destroyer. Stavano quasi per venire a suonare a Bologna, ma poi la cosa non è andata in porto, ed è per questo che ho voluto mettere in scaletta un loro pezzo da questo ultimo lavoro, Destroyer, e si chiama Down Around Me. Around Me, Telepathy, duo brooklinese e femminile, amiche e collaboratrici di Chairlift, che a loro volta remixarono un pezzo di punta con cui sono uscite fuori. L'abbiamo anche viste a Benicassim tanti anni fa, il pezzo era So Fine. Ma andando avanti nella loro carriera, appunto una scena super attiva e super ricca di iniziative, un'iniziativa nel 2010 era questo album tributo per David Bowie, We Were So Turned On, un album a cui hanno partecipato Duran Duran, The Warpaint con la bellissima versione di Ashes to Ashes, ma anche Carla Bruni, e anche Chairlift con Always Crashing in the Same Car, tratto da Low del 77. It's crashing in a single car. still got rush. Must have been touching close to 94. Oh, but I'm always crashing. Potevamo mettere comunque anche l'originale, questa cover dei Chairlift fatta nel 2010 per l'album tributo a David Bowie, We Were So Turned On, Always Crashing in the Same Car. Abbiamo voluto mettere anche la versione originale contenuta in Law del 77. Come dicevo, i Chairlift hanno sempre dimostrato una facilità a creare delle canzoni pop, stando sempre un po' al limite del mainstream, dopo essersi appunto fatti conoscere grazie alla Apple. Hanno fatto quest'altro disco nel 2012, anticipato, uscito a gennaio, proprio 4 anni prima, esattamente, quasi gli stessi giorni di fine gennaio del 2012, ma già qualche mese prima questa uscita fu anticipata da un bel singolo, Amanamon Asia, che dimostra come a lei piacciono le parole difficili, le parole lunghe, le parole che vengono dal greco, polymorphing, per esempio, che voglio dire, non tutti gli americani le conoscono, certe parole, quello che per noi è, insomma, di conoscenza comune, per loro lo è un po' meno. E questo pezzo, Amanamon Asia, è accompagnato da un bellissimo video. Tra l'altro tutti i video, quasi tutti i video dei Chairlift sono diretti da lei. La coreografia in cui lei balla era ispirata a Maurice Béjart, grandissimo coreografo del Novecento, e questo termine è un termine inventato, cioè non esiste un termine come amanemonesia, ma esiste la mané, che è una tecnica di massaggio che New Age, che punta molto sul rilassamento emotivo, sullo sfogo, sulla catarsi, sulla liberazione. E quindi forse questa canzone forse parla della sensazione di liberazione che si prova. Questo qui appunto era uno dei pezzi che mi ha assolutamente conquistata quando li ho conosciuti, e si sente questo suono anche di basso molto molto tipico di Mick Karn e dei Japan, di una certa musica anni 80 un po' più sperimentale. Hanno sempre avuto questa tendenza a fare cose non facili, molto suoni sperimentali, però alla fine un prodotto assolutamente orecchiabile e infectious, come dicono, ovvero contagioso, che ti entra nella testa. Come un'amnesia, questa manemonisia presa per magia, scambiata per magia. E questo pezzo appunto anticipato nella forma di un 7 pollici, edito da quella Terrible Records fondata nel frattempo da Chris Taylor e Chris Liber, per cui incide anche, ha inciso perlomeno nel suo progetto solista Caroline Polachek sotto il nome di Ramona Lisa, come abbiamo detto, abbiamo fatto sentire durante la trasmissione dedicata a Empress Off, che fa parte attualmente della scuderia della Terrible Records, e nell'album che poi ha contenuto questo pezzo hanno veramente dimostrato che sanno seriamente, insomma, comporre e mettere insieme una canzone pop, ma con la caratteristica che le canzoni più carine hanno sempre qualcosa di inquietante e le canzoni aggressive hanno sempre qualcosa di carino. Smiles grotesquely in the light of the day, singing in German, the cold summer warning, but I can't remember what I meant to say. Poi, se non si fosse ancora notato, il punto di forza della band è la voce di Caroline, una voce flessibile, versatile, cristallina, definita anche diamond sharp, acuta e trasparente come un diamante, che ha affinato grazie anche a studi di lirica che ha abbandonato e poi ripreso, così importanti nella sua vita, tanto che l'officiante delle sue nozze è stata proprio la sua insegnante di canto lirico. E parlando di voce così centrale, così importante, e di musica anni 80 e di influenze un po' orientali e di pop sghembo, non potevamo che nominare Kate Bush e far sentire quello che è il pezzo che più si avvicina all'estetica sonora e anche visiva dei Chairlift, ovvero Babushka, 1980, contenuta nell'album Never Forever. But how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, babushka, babushka. E non potevamo non mettere Kate Bush, perlomeno a noi della redazione di Meta FM, è stata un'associazione molto naturale, vedendo tutta la produzione e l'estetica, anche l'attenzione all'aspetto visivo dell'opera dei Chairlift, che, e ne stiamo parlando in questa trasmissione oggi, hanno appena pubblicato un disco, Moth, ovvero Falena, e uno dei pezzi principali anticipatori del disco in realtà viene prima nella tracklist dell'album, ma è stato il secondo singolo anticipatore, tant'è vero che inizia con una scena in cui in sottofondo, in un drugstore, in un negozietto, si sente la fine del singolo che l'ha preceduto, che ascolteremo dopo, è questa, Romeo. Anche questa super accattivante. Romeo, e il video a questo è fighissimo e si vede quanto sia grande l'influenza e l'estetica orientale, cinese, giapponese. In realtà l'origine, il significato, il contenuto della canzone non ha niente a che fare assolutamente con l'Oriente o col Giappone, ma prende le mosse dal mito greco di Atalanta. Atalanta era una cacciatrice cresciuta, allevata nel bosco dagli orsi, che sfidava i suoi molti pretendenti, perché ovviamente era bellissima, una sfida, una gara di corsa che lei regolarmente vinceva, e chi perdeva veniva regolarmente ucciso. Ma come ho letto appunto in una nota, tanto Atalanta era molto più interessata a dare la caccia ai cinghiali che ai ragazzi. Eccolo il singolo anticipatore ad ottobre, Cicing, anche questo un video molto speciale, una musica molto speciale, ci sono campane orientali, ma ci sono fiati degli anni 70, c'è una coreografia che rimanda sia all'Oriente che alla Cina, che alla Giamaica, alla dancehall giamaicana, in questo melting pot che fa da sfondo e che fa anche da filo rosso dell'album, ovvero New York. Got what you want, can't be dangerous, but it's the only way to win. ovvero avere un colpo di fortuna, aver vinto alla lotteria e magari non rendersi neanche ancora bene conto della fortuna che ti è capitata. E inconsciamente o consciamente questo pezzo parla molto e si sente anche nelle sonorità, perché ci si può anche un po' cantare sopra a un certo punto. All the Single Ladies richiama molto i suoni di Beyoncé, perché indirettamente parla di questa grande fortuna che li ha segnati molto, ovvero di poter scrivere, poter lavorare con Beyoncé, e che poi alla fine la canzone che ce l'ha fatta ad entrare nell'album è stata opera solo, tra virgolette, di Caroline. È un suono che appunto risente molto di New York, della giungla urbana. Una canzone che è essa stessa, insomma, un calderone, com'è la stessa città, ma è assolutamente trascinante. Anche se forse è stato un po' straniante ascoltarla all'inizio, la prima volta, adesso siamo assolutamente conquistati. If nobody sees it, then nobody knows. I beg for forgiveness, not permission. The music ain't playing until you listen. Yeah, and what you want can be dangerous, but that's the only way I want to be. A double dare to keep a secret. '27, '99, '23, canzone globale per un video globale che appunto unisce campagne orientali, sex anni 70, dancehall giamaicana, abiti giapponesi, lo sfondo della New York industriale, lo spunto all'inizio erano le danze cinesi per lei e anche le danze di Bollywood, e questo è stato sintetizzato dalla dancehall giamaicana. Ed eccolo il pezzo diverse volte già evocato, ovvero quella No Angel, che in realtà Caroline aveva scritto per il suo lavoro solista, non è entrato nel suo album da solista come era Mona Lisa, il titolo Arcadia, e invece è diventato un pezzo dell'album a sorpresa che nel dicembre 2013 ha pubblicato Beyoncé, il suo album omonimo, e appunto l'origine è questa. Si sono incontrati ad una mostra, probabilmente, e una galleria d'arte, e Beyoncé ha detto: ci piace quello che fate, proviamo a fare qualcosa insieme. Quindi ovviamente questa non è un'esperienza che ha cambiato il loro modo di fare le cose né il loro stile, ma che sicuramente è stato, come si dice, un confidence boost, cioè è stata una bella botta all'autostima e alla sicurezza. Infatti quello che si dice in quasi tutte le recensioni, tutte piuttosto favorevoli, con una media del 7.3, sempre le fonti sono Metacritic e le recensioni sono quelli dei media specializzati, insomma più autorevoli nel settore, e appunto quello che si dice in tutte queste recensioni è che è un lavoro molto molto sicuro di sé. Hanno guadagnato in sicurezza dei propri mezzi e anche in una po' compattezza, mentre magari in Something c'erano dei bei pezzi che però erano un po' slegati tra loro, in questo lavoro invece si sente che c'è più una cornice, un qualcosa che avvolge, avviluppa tutti i vari pezzi, da quelli più energetici e zompettanti ed allegri a quelli più calmi e riflessivi, perché ce ne sono comunque nell'album, in un modo molto coerente che non diciamo non snatura l'essenza del loro suono caratteristico che i vecchi fan già conoscono. E questa appunto è Beyoncé, No Angel. Spell. Stop acting so scared, just do what I tell. First both of my legs go back on your head, and whatever you want, yeah baby, I'll appunto questo pezzo che vede i writing and producing credits di Caroline Polachek insieme a Beyoncé stesso e ad un altro compositore. Ma le collaborazioni sono state molto numerose da sempre, dal 2010 con Washed Out, con gli Holy Ghost, e poi nel 2013, stesso anno di questa collaborazione con Beyoncé, con i catalani DeLorean, con Sébastien Tellier, che ascolteremo dopo, e poi anche con altri nomi come Subtract, composizioni di musiche per sfilate, per balletti. Caroline assolutamente inarrestabile, e uno dei pezzi preferiti un po' da tutti, credo, oltre a pezzi come Before che abbiamo sentito anche in trasmissione, la trasmissione dedicata ai Cults, a Sidewalk Safari. Una canzone che spiccava più di tutte era I Belong in Your Arms, ma soprattutto nella sua versione giapponese. Quando il disco è uscito in Giappone, appunto grazie a questo omaggio di queste reminiscenze infantili, hanno fatto un video legato a questa canzone con il testo giapponese, a parte qualche parole come il ritornello e something something something ripetuto nella canzone. Un video molto bello, sempre diretto da Caroline, e era appunto un omaggio, ma anche una rendersi conto, dopo che è stato fatto, che in realtà suonava molto meglio. Anche per me la versione preferita, infatti quella versione in inglese non l'ascolto mai perché mi suona assolutamente sbagliata, mentre la versione giapponese, anche se non si capiscono le parole, richiama molto questa sensazione che sono molto bravi a catturare i Cherlip, cioè dell'euforia di quando inizia una storia d'amore e sei assolutamente fuori di testa per questo nuovo sentimento che ti travolge. E c'è una considerazione che fa anche Caroline, che ha notato con curiosità di come questa versione giapponese abbia avuto molto successo nei blog americani, e dice: sì, penso che sia adatta a noi questa versione, che comunque non è che siamo caratterizzati in modo tanto americano, non facciamo musica tradizionalmente americana, non siamo un gruppo rock and roll, quindi comunque cantare in un'altra lingua non ci snatura in nessun modo. Ed è curioso che la musica che io ho ascoltato fin da ragazzina, che mi ha influenzato, fosse proprio fatta da artisti per cui l'inglese non era la loro prima lingua. Parlava dei Björk, di Moom e degli Air. E questa versione che stiamo ascoltando è la versione molto balearica, molto ibisenca, fatta da John Talabot e Pional in un EP del 2012 per la Young Turks, che era praticamente il distributore della loro etichetta nel Regno Unito, un'etichetta che contempla anche XX e tanti altri bei nomi. In questo Chairlift at 6:15 remix EP, che conteneva anche contributi di Fotech, di The Field, la versione giapponese appunto di I Belong in Your Arms, e anche un remix ad opera di Dan Carey, uno dei due coproduttori di Something, insieme a Alan Mulder, uno dei più grandi produttori. Sarebbe inutile elencare tutti i nomi delle band famosissime che hanno prodotto, tra tutte e due soprattutto Alan Mulder, mentre questo Moth è stato autoprodotto dalla band stessa, con un piccolo aiuto in Cicing come coproduttore per il tipo, come si chiama, Ryan Hannibal, qualcosa del genere, dei Rai. Mentre Moth appunto è stato autoprodotto, e il pezzo che viene sempre esaltato in tutte le recensioni è il pezzo centrale dell'album, che si chiama Crying in Public, e che appunto riassume questa sensazione di essere assolutamente innamorate, di non riuscire a contenere l'emozione. Gun and the tough guys are red. io col mio solito autismo nel ritornello ci canto sopra Blasphemous Rumors di Depeche Mode. A stone, and my heart is a hollow with a space for your own, or whatever you wanna do with it. And I'm blaming all beauty upon you, from the birds at my feet to the breakdancing boys and their boomboxes. Beep, beep, beep. I'm sorry. Ballata emotiva e calda, tutti parlano di questa grande vulnerabilità messa a nudo, e dove anche la città di New York appare molto, infatti vengono nominati i ragazzi che fanno break e le boomboxes, insomma i suoni della città. Crying in Public è un contributo esterno, come li chiamiamo qui a Might FM, che ho voluto mettere per forza in questo inizio che sembra tanto A View to a Kill di Duran Duran. In realtà è Grimes con la sua collaborazione con Janelle Monáe, Venus Fly, perché sento dei punti in comune tra Cherlift, Caroline Polachek e Grimes, il fatto di mischiare gli stili, di essere assolutamente contemporanea, di non aver paura di mischiarsi con il pop, anzi di dichiarare il proprio grande amore per cantanti come Mariah Carey, di saper mischiare tutto e reinventarsi e avere un suono assolutamente contemporaneo. Anche questo tun tun tun di Venus Fly lo associo anche molto alla ritmica di Romeo, il pezzo che abbiamo sentito prima, e insomma Grimes ci sta sempre bene anche per l'influenza, anche per le sonorità orientali, giapponesi, cinesi, che spesso si sono sempre sentiti nei suoi pezzi. Thank you. ma Grimes ci sta sempre bene. Anche questa puntata dedicata ai Cherlit, il loro nuovo album Moth, come dicevo. Poi ecco, poi sento queste cose che... un misto tra l'Irlanda e quello strumento a corda che suona con un archetto cinese, che non ho trovato il nome perché pare che si chiami in 5 modi diversi. Dicevo, 73 di media, partendo da 9 passa di Entertainment Weekly per questo disco. Parla di synth pop con tendenze sperimentali, più voce agile e operistica, testi arguti, occhio da poeta nell'osservare la realtà, mostrare senza dire, giocare con le parole e i suoni come Gertrude Stein in un pezzo come Polymorphing. Poi The Run of Best Fit, che presenta appunto, definisce Moth come una spacconata, una spavalderia pop molto sicura di sé. Infatti loro stessi dicono che insomma anche lavorare con Beyoncé non è che, che li ha stravolti, però diciamo ha validato, ha dato valore al loro modo di operare e che hanno potuto realizzare completamente in questo album. È un pezzo in cui si faceva riferimento sul mostrare senza dire, è il pezzo Ottawa to Osaka, appunto ritorna l'influenza del Giappone e questi suoni assolutamente Japan, nel senso di band, nel senso di paese. È il pezzo che tutte le recensioni insomma trascurano, dicono che è un po' insignificante, non fa né caldo né freddo, invece per me è il più bello praticamente. All'acconciatura, alle sonorità della loro musica, l'influenza del Giappone è sempre stata dichiarata e l'abbiamo già dichiarata diverse volte. Ricordi dell'infanzia, l'illustrazione, il cibo, i colori, il suono della lingua e la scrittura, eppure non conosceva. e quindi l'influenza artistica che ha lasciato il segno nell'attività di Caroline Polachek, che, come ho però scritto anche nella presentazione, oscilla tra questa influenza orientale e anche una passione per il classicismo, per i miti greci. Anche il suo lavoro come Ramona Lisa, che era uno dei suoi pseudonimi di Facebook, si chiama Arcadia e prende proprio le mosse dalla classicità e dall'influenza della sua permanenza, della sua residenza artistica a Villa Medici a Roma, in questi giardini dove gente è stata uccisa, dove i Rolling Stones si sono fatti di acido, si sono fatti influenzare da tutto questo per fare un album di musica elettronica pastorale. Ma non solo, il suo disco solista è stato anche ispirato dal lavoro di Virginia Astley con Sakamoto, quindi ancora Silvia nell'area, quel bellissimo album Hope in a Darkened Heart che conteneva Some Small Hope, il duetto con Silvian, e sono molti anche gli omaggi a altri musicisti giapponesi, e non potevamo alla fine non mettere un pezzo di Japan, ovvero Cantonese Boy, tratto da Teen Drum 1981. We're pushing through these bombing towns. We've worked hard plowing over ground. Red army cohorts, look all of the crowd. Red army need you. It calls you. Sempre piacere riascoltare Japan e David Sylvian, ma noi stiamo parlando di Chairlift e del loro nuovo disco Moth, che sta ricevendo critiche insomma molto positive. The Line of Best Fit un 8 e mezzo, Pretty Much Amazing 8.3, dice Moth sicuro di sé, sexy e meravigliosamente strambo, perché appunto questi termini tipo weirdness, quirkiness, off kilter, sono tutti termini che si applicano molto, vengono applicati molto ai Chairlift. Come Something è stato un balzo stilistico dal debutto, così Moth è un enorme miglioramento. Novità, R&B trap sound, vabbè, suono di New York, collaborazione con Beyoncé, varietà di ritmi, strumentazione bizzarra, ovvero stile sempre più inclassificabile, o come non mai inclassificabile, un misto di tutto al grido di Anything Goes, va tutto bene, mettiamo tutto dentro, anche nell'uso della voce, orecchiabile, accattivante pop da cortile della scuola, canzoncine da cheerleader come Cicing, ma è così divertente che le parole vanno in secondo piano a volte, giocare col suono, modulazione delle sillabe vocali come per esempio succede in Polymorphing, è stata addirittura accostata all'uso del suono delle parole al di là del significato all'opera anche di Gertrude Stein. Testi Amore e Desiderio, Crying in Public, sensazioni che ti sopraffanno, appunto una gioia incontenibile che ti commuove per un nuovo amore, un disco leggero di pop immensamente godibile, forse non cambia la vita a nessuno ma ti dà un bello sprint per superare l'inverno. Gentlemen, you heard us call, raised your glass and called for more. Only a man broke è questo pezzo super bouncy, dancing, anni 80, un po' Madonna, è un po' nella versione di Grimes, un po' reality, e che si chiama appunto come una falena verso la fiamma. Anche questo assolutamente trascinante, ritorna alla metafora della falena, cioè la falena magari sa o non sa che fa qualcosa di pericoloso, che per quel momento di luce, di calore può rischiare la vita, e questo è quello che fanno molto spesso le persone quando magari sanno che fanno qualcosa di sbagliato, sanno che quella persona che ha incontrato non va bene per te, anzi è abbastanza deleterio, ma l'attrazione è invincibile. Andiamo avanti con le recensioni. All Music gli dà un bell'8, bravura di Wimberly cresciuta e voce di Polacek, il discussa star dello show. Siamo inondati da brillante pop a base di R&B, ma Cherlinks emerge dalla massa, per esempio questo pezzo. Il disco c'entra quel punto tra moderna semplicità pop, più leggera stranezza artistoide. E ancora Spin, stesso voto, 8, parla della sicurezza. E Moth to the Flame dà spazio a un suono completamente diverso, che è quello di Sébastien Tellier. Perché l'abbiamo voluto mettere? Perché una delle molte collaborazioni nel 2013 è stata quella con Sébastien Tellier. Hanno pubblicato proprio un singolo, Sébastien Tellier e Caroline Polachek, che si chiamava In the Crew of Tea Time, e quindi abbiamo voluto dare riconoscimento, anche perché la musica degli R è stata dichiarata come un'influenza, il fatto di aver passato del tempo in Belgio prima dell'università, il tempo di amare la canzone francese come si sentiva in un pezzo del primo disco. Abbiamo deciso di mettere Sébastien Tellier perché ci sta tantissimo simpatico. Abbiamo messo questo pezzo del suo ultimo lavoro, L'Amour Carnaval, contenuto in L'Aventura del 2014, dove lui, Sébastien, che lui rielabora dei ricordi d'infanzia, cerca di trasformare in musica i ricordi della sua prima infanzia passata in Brasile. Maintenant vont rêver l'amour carnaval, l'illusion d'été, l'hiver tropical, version USA, comme je t'aimais. E tornando alla recensione di Spin, era proprio Spin che diceva che Moth circonda di una struttura, di una cornice più compatta, le spirali colorate dei cieli senza sbiadire o soffocare o comunque ammosciare, diremmo noi, il prodotto finale. E il pezzo successivo, Moth to the Flame, è un pezzo altrettanto saltellante, che si rifà molto ai suoni del dance floor, della disco. E è questa Show You Off, che contiene una sorpresa. Take a break from moving mountains, I wanna show you off. Laying low at home, whatever, I wanna show you off. Tell the boys who think they're clever, I wanna show you off. So that they see who's finally saying yes to you. You can trust this, you can have this, and I'll play on. Around then you can show me off too. You can trust this, you can have this, not play. Anche questa è una canzone sull'euforia dell'amore, dello sfoggiarsi insieme. Puoi sfoggiarmi i tuoi amici, puoi far vedere alla gente chi è che ti ha detto di sì, avere il piacere di farsi vedere in coppia con qualcuno. E è Alan Sorrenti, Fidi delle Stelle, 1977, come l'odio David Bowie. E il suono, vabbè, probabilmente Chairlift non conoscono Alan Sorrenti, però il suono della disco di quegli anni era più o meno molto simile. E niente, ho sentito Show You Off, ci ho cantato istintivamente sopra questo bellissimo pezzo. Ecco, visto, è già passata. Ecco come gioca con la voce, la sua voce così versatile, flessibile, cristallina, Caroline Polachek. Andiamo avanti con le recensioni. Exclaim 8, songwriting e produzione sofisticata, Moth Forward Thinking, che tradurremmo come un disco avanti, molto avanti. Arrangiamenti meticolosi, bordi frastagliati di Something vengono resi patinati e glossy, ma le canzoni rimangono sempre interessanti. E appunto per questa evoluzione verso il disco funk della scena che in passato era definita chill wave, a cui apparteneva anche Washed Out, con cui appunto Caroline ha fatto un duetto nel 2010. Un altro nome era Neon Indian. Allora, per associazione di idee e per associazione sonora, Vague International Night School, disco del 2015, molto apprezzato. Avevamo pensato di farci una trasmissione di Might FM, ma era un po' troppo disco, funk, dance, un po' troppo, però abbiamo voluto dare riconoscimento a questa evoluzione musicale di Alan Palomo, e questa è The Glitzy Hive. Just ce lo teniamo in sottofondo. Continuiamo con Exclaim. Mostra il suono di una band che sente di non dover più dimostrare nulla, con Moth che Cherdit si candida uno dei migliori songwriting team, dove produzione e espressione vocale danno vitalità alle loro composizioni. Pitchfork 7.6 insiste molto su Crying in Public e sulla metafora della falena, il fatto che ha una vita apparentemente inutile, che gira sempre in circolo, che poi magari viene annientato da questo desiderio di avvicinarsi alla luce, e che appunto anche nella dichiarazione stessa della band hanno voluto scegliere questo nome, questa immagine, anche nel quadro della copertina, che è ad opera di Rebecca Bird, come mi sono dimenticata di dire, il quadro usato come copertina dai Daughter era di Sarah Shaw e non l'ho detto. Ha voluto appunto scegliere questa metafora come vulnerabilità, però di una bestia che non ha posa, non ha calma, non ha requie, relentless. E andiamo avanti con il penultimo brano dell'album, che dopo tanta energia, tanta euforia, chiude su un tono un po' minore con questo Unfinished Business, una storia rimasta ancora in sospeso, una questione ancora non conclusa, non finita. I told you I have to go, and I'll pretend I really know. I've got meant to get to the center of a storm with your name still carved into my bones. My sister pale, wind in the sail, calls me senseless to her side. But on the plates, between the trains, you'll be a star within my sky. Anche qui la voce così centrale, la modulazione delle vocali per un disco considerato appunto molto completo, molto sicuro, Consequence of Sound dice brillante, diretto come non mai, maestria nel costruire canzoni pop. Moth può farlo uscire dalla nicchia dei cocchi dei critici senza fare nessuna concessione o compromesso. Quando è stato chiesto a Caroline di definire quest'album in tre parole, l'ha definito gioioso, sdolcinato e personale. Caroline si dichiara appunto una romantica senza speranza, infatti Cherlit sono bravissimi nel catturare, come dicevo, questo senso di euforia, dell'innamoramento, l'eccitazione ansiosa, il nodo alla gola, il battito accelerato, che è proprio gli ingredienti che fanno delle grandi canzoni pop. Drowning Sound 7 dice pop dai rimandi anni 80 più elettronica spigolosa. E addirittura Rolling Stone, sempre 7, dice hanno conquistato il sacro graal del synth pop, sono gli Yazoo dei nostri tempi, creatori di melodie perfettamente scolpite, deliziosamente ricercate come Vince Clarke e Alison Moyet. E abbiamo nominato il lavoro come Ramona Lisa, abbiamo già fatto sentire una canzone Backwards and Upwards nella trasmissione dedicata a Empress Off, Arcadia 2014, e dove la centralità, la specialità, la caratteristica speciale di Caroline è la sua voce, abbiamo deciso di mettere un breve pezzo invece strumentale che si chiama Hissing Pipes at Dawn, They're Playing Our Song. Come dicevo, questo disco è stato il prodotto di una residenza artistica a Roma, Villa Medici, dove occupava le stanze precedentemente occupate dal pittore Balthus. Finiamo con DIY Mag 6, la metamorfosi è completa, vabbè, le metafore con la falena, la farfalla, la crisalide si sprecano. Instancabilmente creativo, Moth con un pezzo come Cicing che è stupefacente, stupefacente, contagioso, originale, brillante, bizzarro, un album che scoppia di sicurezza, divertente, gioioso, qualcosa di molto più fuori di testa, audace ed esilarante che mai. E questo è il pezzo preferito da Caroline Polachek, No Such Thing as Illusion, il pezzo di chiusura di questo album, il più lungo che sentiremo tutto. Parole di Caroline, questo appunto è il suo pezzo preferito, una canzone sull'impegnarsi seriamente con qualcuno sapendo che le cose non andranno bene, che non sarà tutto perfetto, che ci sono un sacco di sfide, di rischi sconosciuti che però vengono, diciamo, vinti dalla semplicità e la bellezza dell'amore, che valgono più di ogni sacrificio e dedizione. Un pezzo che musicalmente mi riporta ancora ai fiati dell'epoca dei, soprattutto direi, dei lavori di solista ancora di Mick Karn, e si può sentire verso la fine delle chitarre che invece ricordano tantissimo David Sylvian, però già secondo lavoro solista Gone to Earth. La sicurezza nelle proprie capacità vocali è, si sente, è palpabile, è come se Caroline fosse un po' votata al successo, molto attenta all'immagine, molto attenta ai particolari, è impeccabile nella sua esecuzione, nella sua presentazione. Ho anche trovato tutto un servizio di Vogue, ma di quelli proprio ufficiali, con tutte le foto in posa, che ha seguito tutto il suo matrimonio con un architetto designer molto efebico e carino. Eccola la chitarra. Siamo arrivati alla fine di Mighty FM per parlare di Moth, terzo album dopo 4 anni dei Chairlift, il New York Album. Hanno detto in diverse interviste che appunto lo considerano un album assolutamente concentrato, centrato su New York, perché si sono resi conto di come sia un posto pazzo e speciale per un sacco di ragioni, perché c'è questo mix di cose futuristiche e anche cose orribili come dei palazzi fatiscenti, e anche la diversità, la varietà delle persone, e anche il gap che c'è nella ricchezza tra i ricchissimi e i poverissimi, tutto il contrasto che contiene questa città. E quindi imparare a vivere in un contesto del genere, in mezzo a tutto questo, e soprattutto a divertirsi in questo contesto, abbiamo pensato che appunto fosse questo quello che alla fine informava il nostro lavoro, un lavoro che a noi di Mighty FM ci è piaciuto molto, anche per le derive più R&B, più pop, perché comunque quando una cosa fatta bene è fatta bene, come ha dimostrato anche Grimes con Art Angels, per cui assolutamente nei best finora dell'anno. Speriamo di vederli in concerto, hanno già confermato la loro partecipazione al Primavera Sound di Barcellona, mi pare. Oppure adesso mi confondo con tutti i festival che stanno annunciando. Va bene, ci sentiamo forse tra un paio di settimane. Chi vi ha parlato per 1 ora e mezza è Mighty Mau. Buon ascolto su Radio Kairos.